America 24 di Mario Platero. Madam Speaker, the President of the United States. Yeah! Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Quello che avete ascoltato è uno dei momenti più solenni della vita politica americana. È da 220 anni che i presidenti degli Stati Uniti si recano in Congresso per riferire delle condizioni della nazione, dunque il discorso sullo Stato dell'Unione. Per Barack Obama è stata la prima volta, ma la liturgia è secolare. In tutto Obama ha parlato 1 ora e 10 minuti. Despite all our divisions and disagreements, our hesitations and our fears, America prevailed because we chose to move forward as one nation, as one people. Ecco Barack Obama al suo esordio. L'America si è sempre mossa in modo unitario. In questo momento l'America è messa alla prova e deve rispondere una volta di più all'appello della storia. Energico, determinato, con la grinta di un tempo, ieri notte Barack Obama ha cercato di riconquistare il cuore degli americani, ha promesso di creare posti di lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro è stato il ritornello continuo di questo suo discorso. Nel 2010 ha detto: deve essere la nostra preoccupazione numero uno. E ha detto: la gente è senza lavoro, è gente che soffre e che ha bisogno del nostro aiuto. Now let me repeat. We cut taxes. We cut taxes for 95% of working families. Abbiamo ereditato una situazione difficile, dunque siamo passati all'azione, dice Obama. Abbiamo tagliato le tasse, al 95% dei lavoratori, e riesce persino ad improvvisare una battuta. Sento che su questo tutti mi applaudite, in effetti anche i repubblicani si erano alzati in piedi in un'ovazione. È stato in questo passo del discorso che Barack Obama ha rievocato le condizioni difficili in cui ha ereditato il paese, ha cercato in qualche modo di scaricare le colpe gravi di questa crisi economica sulla precedente amministrazione. E passando all'azione, ha detto il presidente: abbiamo anche dovuto aiutare le banche. Detestavamo tutti l'idea di aiutare le banche, ha detto Obama. Era doloroso come togliersi un dente, ma l'abbiamo fatto per il bene comune, altrimenti avremmo avuto una depressione, avremmo avuto un numero di disoccupati molto maggiore di quello che abbiamo adesso. E dunque, reclama il presidente, queste sue azioni, criticate da molti, soprattutto per gli aiuti bancari, soprattutto per la creazione di un pacchetto di stimoli dell'economia, queste sue azioni, ha detto Obama, hanno contribuito a risparmiare, a salvare 2 milioni di posti di lavoro. So tonight I'm proposing that we take $30 billion of the money Wall Street banks have repaid and use it to help community banks give small businesses the credit they need to stay afloat. Ed eccoci al cuore della proposta di legge di Obama. La vera novità: un rilancio delle piccole e medie imprese, un contributo in termini di finanziamenti, di agevolazioni fiscali, di crediti fiscali, di ammortamenti accelerati, perché, ha detto Barack Obama, le piccole e medie imprese sono la vera fonte del lavoro negli Stati Uniti. E dunque ha suggerito di recuperare 30 miliardi di dollari dal TARP, già rimborsati dalle banche americane, per poter aiutare le piccole e medie imprese. Questa è solo la prima parte delle iniziative di Obama, riguarda le iniziative a breve, ma il presidente anche ha proposto delle iniziative a medio termine per poter creare delle fondamenta solide su cui l'economia americana potrà crescere in modo sostenibile. E ha proposto la creazione di una commissione ad hoc incaricata di guardare proprio ai problemi gravi dell'economia americana, ad esempio il forte disavanzo pubblico. Ha chiesto il presidente un congelamento di 3 anni delle spese discrezionali del Congresso e ha chiesto che questa commissione produca delle soluzioni concrete per poter contenere il deficit americano nel 3% del PIL entro i prossimi 5 anni. We need to encourage American innovation. Third, We need to export more of our goods. Riforma finanziaria, innovazione, esportazioni e pubblica istruzione sono i quattro pilastri su cui costruire il futuro, con un quinto messaggio: la riforma sanitaria. Ecco che Obama l'affronta di nuovo. Non possiamo mollare ora, non possiamo mollare ora, ha ripetuto il presidente. E anche i repubblicani, che erano rimasti seduti uno per uno, si sono alzati in piedi unendosi al coro degli applausi. With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed a century of law that I believe will open the floodgates. Non poteva mancare la gaffe, un attacco diretto alla Corte Suprema, uno dei passaggi più delicati del passaggio del presidente Obama. Si è lamentato di una decisione della settimana scorsa della Corte Suprema che autorizza le aziende americane a partecipare ai finanziamenti e alle elezioni in modo molto maggiore di quanto non potessero fare prima. Un intervento, questo, del presidente, che è stato criticato da alcune reazioni. Non mi è sembrato appropriato, ha detto Juan Williams, di provenienza democratica, un commentatore tuttavia della Fox, una rete della destra americana. Ebbene, dice Williams, non mi è sembrato appropriato che il presidente attaccasse la Corte Suprema avendo i giudici seduti a pochi metri davanti a lui. Secondo me è stata, ha detto Williams, una violazione dell'etica istituzionale. Per il resto, commenti in generale positivi su CBS, su ABC, su NBC, su CNN. E tutti hanno apprezzato il discorso del presidente, soprattutto il momento in cui, con tono contrito, ha ammesso che degli errori sono stati commessi e forse alcuni dei passi indietro che ha subito la sua amministrazione erano anche meritati. E ascoltiamo il finale. Abbiamo superato un anno difficile, una decade difficile. Difficile, ma un nuovo anno, una nuova decade si apre davanti a noi. Noi non molliamo, dice Obama. Io non mollo. Approfittiamo di questo momento per cominciare da capo, per avanzare il sogno e per rafforzare una volta di più la nostra unione. Ci siamo dedicati in questa nostra puntata di America 24 soprattutto a Barack Obama, ma ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica. Potrete continuare a trovarle su America 24. Una delle notizie più importanti della giornata ha riguardato l'iPod. Qualcuno dice che era persino più importante del discorso di Barack Obama, che la gente davvero si interessava soprattutto a questo atteso prodotto presentato da Steve Jobs a San Francisco, questa nuova tavoletta magica che potrà consentire di ascoltare musica, vedere video, leggere libri e fare mille cose. E dunque arriviamo alla canzone del giorno. A metà fra uno smartphone e un computer portatile, l'iPod non sostituirà l'iPhone nella sua funzione di telefono cellulare. Per questo dedichiamo Hanging on the Telephone di Blondie a tutti i telefoni dipendenti. I'm in the phone booth. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!